Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Di cosa parliamo? Vicino alla poltrona la mia birra, il mio panino, sopra il tavolo un bicchiere di vino. Prendo il posacenere che ancora nel soggiorno, poi non voglio più nessuno qui intorno. Grazie per le scarpe che hai comprato giù alla standa, ma ora zitta che ha finito la banda. Guarda i capitani che si stringono le mani e si va, e in fondo come fossi già là. Hey! Voglio pensare solamente ai fatti miei, hey! Voglio guardare in santa pace gli europei, hey! E non mi importa se tua madre ha mal di schiena. Ehi, in questa calda estate del 96, hey! Voglio gozzarmi di moviola e di replay, hey! E non mi importa se tua madre ha mal di schiena. Io sarò un cretino e sarò pure prevenuto, ma di darti ascolto proprio mi rifiuto. Lei starà anche male, avrà la schiena irrigidita, però amore sto guardando la partita. Guarda che riprese nello stadio illuminato, che spettacolo la gente di Prato. Che faccio no le lastre, non mi può fregar di meno, lo sai, ma siamo alla mezz'ora oramai. Voglio pensare solamente ai fatti miei, voglio guardare in santa pace gli europei, e non mi importa se tua madre mal di schiena. Ehi, in questa calda estate del 96, voglio ingozzarmi di moviola e di replay, e non mi importa se tua madre ha mal di schiena. Io non posso campar con un peso così, le pago la clinica vita lontano da qui. E vabbè, con questo brano cominciamo la puntata, la prima puntata di giugno del nostro Zibaldone. Do subito il bentornato, il buon pomeriggio al nostro Banzo, al secolo Enrico Banzola, che ci spiega subito di cosa parleremo in quest'ora di Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Il titolo della puntata di oggi è Tutto il calcio canzone per canzone, sezione Europa. Eccola qua. Ecco, ci siamo. Chi ha la bontà di seguirci ricorderà che avevamo già fatto un Tutto il calcio canzone per canzone all'inizio di questa stagione, cioè a settembre dell'anno scorso, settimana più, settimana meno, e quindi abbiamo approfittato dell'avvicinarsi minaccioso dei prossimi europei di calcio in Germania per rispolverare il concept e dedicarlo interamente non al calcio italiano come nel primo caso, ma al calcio europeo. Quindi ci sarà un po' di tutto, canzoni provenienti da paesi che hanno vinto l'europeo o su paesi o calciatori che hanno vinto l'europeo. Comunque lo scopriremo solo ascoltando poco a poco. Se ve lo spiego in modo più dettagliato adesso, probabilmente vi rompo le balle, perdiamo certo tempo. Bravo Banzo. E quindi passiamo. Passiamo a una cosa. Passiamo a una cosa. Europei 96 si intitolava questa canzone, che appunto parlava di quell'europeo dove l'Italia andò malissimo, no? Eliminazione ai gironi, Sacchi se ne andò a casa, fine della sua era come commissario tecnico. Erano le titte, erano titte e le fecce tricolori, che so che tu ami molto perché sono romagnoli come te e come anche Fausto, che tra poco lo ritroverete, che ci accompagna nella puntata di quest'oggi. Beh, non solo romagnoli, ma proprio della Ravennate, quindi proprio l'identificazione assoluta. E effettivamente non è che voglia sempre andare a trovare musica dalle mie parti, però è una delle canzoni che parla più direttamente degli europei di calcio che io conosca, e sviluppa un concetto, se me lo concedi, diciamo fantoziano, perché per alcuni aspetti la descrizione della situazione ricorda un po' quando Fantozzi si isolava con la peroni ghiacciata, la frittatona di cipolle, il rutto libero. Però in questo caso c'è un classico elemento della commedia familiare, cioè i conflitti con la suocera, e però ci sono alcune rime gloriose, e ricordiamo Titta con grande sentimento, visto che ormai purtroppo sono passati quasi 4 anni dalla sua scomparsa l'8 luglio 2020, e ci manca molto in Romagna. Questo era una intro, adesso ci lanciamo nel resto d'Europa. Eh sì, e andiamo anche un po' lontani, non vi diciamo di chi è questo brano, nemmeno in che lingua è cantata, vediamo se lo scoprite da soli. Eccola qui. мячу. Мы относимся с почетом, хорошо поболеть за своих. Ждать налета на ворота, ждать опасных подач угловых. Футболист, не теряй мяча, футболист, не бей сгоряча. Наступление веди методично, умело, тактично. Не успокаивайся, если ничья. Футболист, не теряй мяча. Не надо, друзья, сухого счета, хоть один мяч, но счет размочить. Без налета, с поворота, не раздумывай, бить или не бить. Футболист, не теряй мяча, футболист, не бей сгоряча. Наступление веди методично, умело, тактично. Не успокаивайся, если ничья. Футболист, не теряй мяча. За что на трибуне мы болеем? Левый край, где прорывы твои. Будь смелее, бей точнее, бей в ворота, но чур не в свои. Футболист, не теряй мяча, футболист, не бей сгоряча. Наступление веди методично, умело, тактично. Не успокаивайся, если ничья. Футболист, не теряй мяча. Футболист, не теряй мяча, футболист, не бей сгоряча. Наступление веди методично, умело, тактично. Не успокаивайся, если ничья. Футболист, не теряй мяча. E vabbè, la prima edizione degli europei nel 1960 la vinse l'Unione Sovietica, insomma non è un caso che ci siamo ascoltati probabilmente una canzone uscita nell'Unione Sovietica proprio nel 1961 di Oleg Anofriev, ma do subito il bentornato anche al nostro Fausto De Salvia che ci spiega qualcosa su questo brano. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Partiamo appunto dall'Unione Sovietica che ha raggiunto la sua prima vittoria internazionale nel 1960, prima vittoria e anche unica, perché successivamente non ha mai più vinto gli europei, è arrivata spesso in finale, e però con i mondiali non ce l'ha più fatta, vabbè che c'era all'epoca il Brasile di Pelé, che quindi naturalmente poi la Germania fortissima negli anni 70, quindi non è mai più riuscita ad emergere. Però qui stiamo parlando di una squadra storica che era il suo simbolo, Lev Yashin, no? Il portiere, l'unico credo portiere che abbia vinto nella storia un pallone d'oro, sì. Correggimi se sbaglio. Direi di sì. Quindi una squadra leggendaria che naturalmente appunto vince i primi europei, ricordiamo per i più giovani che all'epoca gli europei erano, le fasi finali erano con quattro squadre, erano un final four praticamente, c'erano due semifinali, poi finale, terzo posto, finale, primo posto, quindi duravano tipo cinque giorni, ecco, non un mese come adesso che ci sono 24 squadre. E quindi per partire con questa nostalgia per il vecchio pallone da calcio, perché appunto il titolo è Futbolni Mnieć, spero di averlo pronunciato bene, comunque letteralmente vuol dire pallone da calcio, e questa è un'ode al pallone che viene martoriato ovviamente durante la partita, come ben sappiamo, però solo il portiere, come dice a un certo punto, aveva affetto per lui, quindi almeno un po' di protezione in porta c'è, anche se magari gli attaccanti avversari non erano tanto contenti. E Anofriev, per ricordarlo al volo, adesso è scomparso pochi anni fa, è stato un attore molto popolare sì in Unione Sovietica, poi ovviamente in Russia, e anche doppiatore, per dirvi, in Russia era il doppiatore di Robin Williams, quindi pensatelo, quindi un attore brillante, ecco, e interprete di almeno 200 canzoni. Eh beh, niente po' di meno. Andiamo avanti, andiamo un po' più a sud, sempre però insomma nel Mediterraneo orientale in questo caso, con questo brano del 65. Musica. Σε τι κακό που γίνεται μεγάλο σαματάς. Όλο για το ποδόσφαιρο θα ακούσεις όπου πας. Στους δρόμους, στα αυτοκίνητα και μες στα καφενεία. Στα σίνεμα, στα θέατρα, σε κάθε μια γωνία. Σε κάθε μια συζήτηση θα ακούσεις διαρκώς Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Μιλάνε για ποδόσφαιρο οι γέροι κι οι γριές. Ακούς παραξηγήσεις και μες στις γειτονιές. Τσακώνονται στο γήπεδο και άγνωστοι και φίλοι. Για κόκκινα, για κίτρινα, για πράσινο τριφύλι. Σε κάθε μια συζήτηση θα ακούσεις διαρκώς Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. E beh, vista la vittoria l'altro giorno della Conference League da parte dell'Olympiakos, insomma, ci stava Fausto mandare in onda una canzone che nominava anche l'Olympiakos oltre alle altre due squadre di Atene, il Panathinaikos e l'AEK, no? Sì, in realtà io l'avevo selezionata prima, mi spiace per gli amici tifosi della Fiorentina, purtroppo è andata così, mai un club greco aveva vinto una Coppa Europea, è capitato proprio la settimana scorsa. Comunque, sì, questo pezzo è ci mostra come era popolare già il calcio nella Grecia degli anni 60. È la versione, questa è del 72 perché è un'incisione successiva, non abbiamo trovato la versione originale, però ci mostra appunto come dice letteralmente il ritornello, in ogni singola discussione sentirei tutto il tempo appunto Panathinaikos, AEK, l'AEK di Atene e l'Olympiakos Pireo, e con appunto lo scontro fra chi tiene per il giallo, quindi quello della EK, oppure per il trifoglio verde, che se non sbaglio è il Panathinaikos. Certo. Quindi. E il brano è di questo popolarissimo cantante greco dell'epoca, naturalmente compositore, suonatore di bouzouki, come avete ben sentito, no? Con il bouzouki che accompagnava il brano, che era Yannis Papadopoulos, correggimi se la pronuncia è corretta. Più che corretta, quindi, Topodosfairo, no? È il titolo della canzone che semplicemente vuol dire il calcio. Il calcio, sì, questo, siamo sempre su brani che parlano del calcio, in questo caso come disputa cittadina, quindi l'Atene degli anni 60, e, però ci serve anche per ricordare che la Grecia una vittoria come nazionale l'ha avuta, talmente inaspettata che è davvero risultata storica, in attesa, quella del 2004, guidati da Otto Rehagel, quando hanno battuto in finale il Portogallo, insomma hanno fatto una cavalcata incredibile che nessuno si sarebbe mai immaginato. Eh sì, 2004, la vittoria della Grecia. Andiamo un po' più a nord adesso e attraversiamo anche il canale della Manica con quest'altro brano. all'inizio degli anni 70, il 73, con questa Nice One Serial, l'Inghilterra, il miglior piazzamento, perché non l'ha vinto mai un europeo, è stato proprio quello di 3 anni fa, alle spalle d'Italia nel 2021, che tra l'altro la finale si giocava proprio in Inghilterra. Banzo, un brano comunque particolare, con una storia divertente. Storia divertente e piena di eventi, ma concitatissima, perché succede tutto fra il 72 e il 73. Si parte da una pubblicità della Wonderloaf Bread, dove c'è una marca, credo, di prodotti pane e simili, che nella pubblicità c'è un fornaio e niente, alla fine gli si dice nice one cereal, cioè ben fatto cereal, e la adottano immediatamente i tifosi del Tottenham Spurs, perché all'epoca avevano un Cyril Knowles in squadra. È incredibile questa frequenza del nome Cyril, la ignoravo. E praticamente in tempo record ne viene fuori un coro sull'aria di Good Night Ladies, che è un pezzo che però proviene dagli Stati Uniti e appariva nei Minstrel Show già nel 1867, quindi se sentivate una certa aria retro. E in questo brevissimo lasso di tempo arriva il produttore Harold Spiro, scrive un testo nuovo, crea questo pseudonimo Cockerel Chorus, perché è galletto degli Spurs. Chiama un cantante di operette, James Phillips, si nota un po' per l'impostazione, e dei turnisti, fra i quali spicca la batteria Mico McBrain, futuro batterista di Iron Maiden, e questo è il risultato, che è incredibilmente settantiano, ma anche retro, ed è gustosissimo, credo. E, alla fine, fra la pubblicità, il coro e tutto, il titolo della canzone è diventato un modo di dire in Inghilterra. Vabbè, e adesso noi ce ne andiamo in Italia. Sentitevi questa cosa qui, era il 1980. Che avete appena sentito era la canzone ufficiale di Euro 80, organizzato proprio dall'Italia, che aveva già vinto gli europei nel 1968 oltre che nel 2021, come dicevo prima. Fausto, una canzone anche in questo caso un po' particolare, ma anche come quell'edizione dell'europeo. Beh sì, come edizione non andò tanto bene, anche perché sicuramente il clima non era dei migliori. In Italia era scoppiato lo scandalo del Toto Nero tipo 2 mesi prima, tra gli altri anche un campione come Paolo Rossi, che era stato colonna della nazionale nel 78 ai mondiali in Argentina, non poteva partecipare agli europei proprio per quel motivo, quindi naturalmente probabilmente non c'era tanto entusiasmo per accogliere una manifestazione di questo tipo. Fra l'altro erano i primi europei a 8 squadre con i gironi all'italiana, quindi un po' più simili a quelli che conosciamo oggi. E quindi leggevo le presenze allo stadio, a parte le partite dell'Italia, che poi non andò bene, arrivò quarta, c'erano 10.000 persone al massimo, quindi puoi immaginare, certo, poca gente, pochi gadget, la canzone ufficiale non se la filò quasi nessuno, diciamo. È peccato perché è un bel pezzo, e tu mi potresti chiedere chi sono questi Euro Kids. E infatti te lo domando subito, te lo domando. Che presentano questa goal con questa sigla. In realtà erano un gruppo di studio formato dai Cyan, che per anni erano stati il gruppo di studio e dal vivo di De Gregori, per intenderci, fino a Banana Republic con Dalla, e che ripresero una loro canzone che parlava di quanto era bello andare in Messico, trasformandola con il cantautore Luigi Lopez, che la cantò modificando il testo, parlando di come era bello andare a vedere il football made in Italy. E quindi, però appunto, non ebbe successo. L'RCA di Roma, che l'aveva prodotta, disse: ma ricicliamola, non buttiamola via. L'anno dopo la utilizzarono come sigla TV per un cartone animato, il primo cartone giapponese dedicato al calcio, che in originale come titolo faceva, mi sembra, l'11 rosso sangue, quindi era molto, sì, drammatico, sì, no? Tiri improbabili, si sfondava il muro con pallonate, quindi insomma veramente allenamenti tipo Tana delle Tigri, per intenderci, sì. E quindi l'hanno rinominato Arrivano i Super Voice, e quindi i bambini dell'epoca se la ricordano come sigla TV e assolutamente non come canzone degli europei. Andiamo avanti i soli 2 anni, nel 1982 andiamo in Germania. Sì, la Germania ne ha vinti di europei nel 1972 e nel 1980, proprio nell'edizione italiana come Germania Ovest, e poi nel 96. Manni der Libero di Christian Brun, una canzone banzo del 1982 che ci riporta a quegli anni in cui, insomma, molti giovani tedeschi guardavano veramente con interesse al calcio e volevano diventare magari un giorno giocatori insieme a Beckenbauer in quella nazionale. Beh, forse nel 82 Beckenbauer, vabbè, comunque sì, effettivamente anche questa è una canzone che commenta un prodotto audiovisivo, perché è una serie in 13 puntate trasmessa nel 82 dalla ZDF, che si chiama proprio Manni der Libero, che in tedesco si dice all'italiana, e racconta le vicende di questo ragazzino che si chiama Manfred, diminutivo Manni, che nel suo cammino verso il calcio professionistico. È un brano di Christian Brun che ha tipo 2000 canzoni all'attivo, non è una cifra iperbolica, e in Italia è conosciuto anche per colonne sonore come Pippi Calzelunghe e Heidi, accompagnato da una serie di turnisti che noi non lo sappiamo, Steven, ma hanno suonato anche in Felicità di Albano Romina, ma anche in brani Ricchi e Poveri, Righeira e Pupo. Quindi ecco, diciamo che non si spiega come si fa ad arrivare dal groove di questo pezzo a Felicità, però insomma i turnisti suonano per campare, questo è quanto. Comunque il pezzo era molto bello. Eh sì, e adesso andiamo invece avanti di 8 anni, però non vi dico di che paese si parla e in che lingua si canta, perché è molto particolare anche questo brano. Che meraviglia questo pezzo, 1990, ci arriva addirittura dalla Jugoslavia, boye football, ossia calcio. Jugoslavia, Fausto, che agli europei ha raggiunto solo il secondo posto in due occasioni, nel 60 e nel 68, e questa canzone tra l'altro del 1990, proprio in un anno in cui insomma proprio negli stadi di calcio jugoslavi cominciano a vedersi delle tensioni che sfoceranno poco dopo in una drammatica guerra civile. Sì, è incredibile pensare come gli ultras croati e serbi verranno reclutati in quei mesi successivi fra il 90, il 91 e il 92 in molte delle milizie, delle opposte fazioni che si scontreranno con i risultati che abbiamo visto. Molti fanno partire simbolicamente la dissoluzione di quel mondo dagli scontri fra gli ultras della Dinamo Zagabria e della Stella Rossa di Belgrado avvenuti il 13 maggio del 90. E quando c'è questa immagine che è passata alla storia di Boban che tira una ginocchiata per colpire un poliziotto che stava colpendo degli ultracroati. Quindi diciamo che parte comunque da lì simbolicamente la dissoluzione, quella nazionale ovviamente agli europei del 92 non ci andrà, poi vedremo dopo chi andrà al posto di quella nazionale. Ma questo pezzo fortunatamente non compare nulla di tutto questo, esce però nello stesso anno. Ed è realizzato dai boye, un gioco di parole fra boy, quindi ragazzo, e boye, colori in serbo, quindi naturalmente c'è questo gioco di parole. Sono una band di Novi Sad, però sono assolutamente contro antinazionalisti, infatti nel 92 Belgrado addirittura suonarono a un concerto contro la guerra e dovettero poi scappare da quella che era divenuta la Serbia, quindi è una rock band, fra l'altro inizialmente tutta al femminile, poi mista, diciamo, ed sono stati protagonisti all'epoca della New Wave jugoslava, per quanto piccola, comunque molto agguerrita. In questo caso si parla della vita di un ragazzo ribelle che scappa da scuola, va ai concerti rock e gioca a calcio con la maglia numero 9. E infatti il testo dice: la palla è la tua migliore amica e lo stadio vicino al fiume è il tuo mondo. Quindi si parla del calcio in provincia. Eh sì, e adesso facciamo un salto nel tempo al 2023 negli Stati Uniti per parlare però di un'altra nazionale, di un'altra squadra di calcio ovviamente europea. Vediamo se ci capite qualcosa. Bellissimo questo di Lance e Chris Allen, che proviene dagli Stati Uniti del 2023, lo dicevo prima. È un po' difficile forse capire a che nazionale fa riferimento, Banzo, se non diciamo il titolo, che è Panenka. Esatto, senza sapere il titolo è incomprensibile, perché trattandosi di un brano strumentale, ma visto che si intitola Panenka è un riferimento chiarissimo a Antonin Panenka, cioè l'uomo che ha segnato il rigore decisivo nella finale del 76 degli europei, ovviamente, che vedeva opposta la Germania Ovest alla sua Cecoslovacchia. E perché questo rigore fu importante? Non solo perché fu il decisivo, ma per il modo in cui venne tirato. È il Panenka, come viene chiamato in tutto il mondo, tranne in Italia, dove a causa del rigore di Totti all'Olanda agli europei del 2000 viene conosciuto come cucchiaio. Però l'inventore, diciamo, di questo modo di tirare i rigori è Antonin Panenka, e fu anche abbastanza sconvolgente perché ovviamente in quel periodo in Occidente il calcio est-europeo era un oggetto misterioso, perché non si vedevano partite, non si sapeva quasi nulla, e Panenka era uno sconosciuto, nessuno si aspettava che avrebbe tirato così. Brevemente sul brano, appunto, abbiamo detto Lance è Benjamin Lance, un percussionista, mentre Chris Allen è un sassofonista. Nel 2023 hanno realizzato questo album intitolato Ballard, ma sono solo questi due brani, l'album e questo brano ad avere nomi per titolo. Quindi il suono è questo, il tutto filtrato attraverso un synth modulare, e loro stessi ipotizzano che possa nascere una collaborazione più continuativa. Vedremo, perché questo brano è molto interessante. Ebbene, e noi rimaniamo nel 2023 e andiamo in Francia per parlare ovviamente di un'altra importante nazionale che ha vinto due europei. Ha vinto gli europei nell'84 e nel 2000, e soprattutto a quell'edizione che fa riferimento questa canzone, appaiata al mondiale del 98, perché il titolo, forse l'avete capito, è una delle poche parole che si pronunciano, è Zinedine Zidane. È così, vero Fausto? Sì Steven, è un brano appunto strumentale con questa breve parte di telecronaca della Purple Submarine Orchestra, che poi in realtà è un duo, diciamo, sono Mathieu Bournazel e Nicolas Baudard, che si definiscono sulla loro homepage di Facebook la combinazione vestita di nero più colorata di Parigi, quindi questo... e quindi parlano anche i toni della loro musica, è un easy listening misto al lounge, che diciamo ci porta quasi un immaginario di film fine anni 60 ambientato nella Costa Azzurra, però comunque parla appunto di un protagonista assoluto del calcio mondiale, e quello soprattutto di una generazione che ha portato la Francia di nuovo ai vertici del calcio mondiale, dopo ovviamente i fasti di Platini, che però avevano lasciato anni, diciamo, piuttosto burrascosi. Ricordo che tipo nel 94, quando la Francia rimase esclusa dai mondiali, beccando un gol all'ultimissimo secondo dalla Bulgaria, quindi insomma avevano fatto diverse figuracce, e poi finalmente ma per loro, ma non per noi, perché effettivamente l'Europeo 2000 è quello del golden goal, il primo e unico europeo segnato con golden goal contro l'Italia. Eh sì, quando Del Vecchio aveva segnato e aveva fatto sperare il bel paese fino a pochissimi minuti dal fischio finale. E andiamo avanti e in realtà torniamo indietro, perché andiamo all'anno 92, un anno di cui parlavamo prima per il caso dell'esclusione della Jugoslavia. Ecco, in quell'anno rientrò così di colpo una nazionale imprevista, la Danimarca. Hvor er det altså bare skønt at være dansker? Hvor er det dejligt, at vi har et fodboldhold? De er så gode, at de kan på vandet vandre, kan kæmpe sammen og kan gøre fjenden kold. hvor er det også bare godt, vi har en træner, der kan stå fast, han er det fynske bøgetræ. Man kan vel ikke gøre for, at man er dansker, og man har skaffet sig det flotteste trofæ. Hvor er det godt, vi har et publikum af klasse. Hvor er det skønt, når der er fest i rødt og hvidt. Der er et yndigt land, den titel kan skam passe. For vores lille land har drevet det så vidt. Nu er vi også blevet mestre af Europa. Det skyldes herrefejl og ikke bare held. For kan man ikke gøre for, at man er dansker? Det kan man ganske sikkert nok alligevel. Fodboldfest til for og fodbolddrenge. Vi førte an i hele Danmarks fodboldbrus. De flotte kampe, ja dem vil vi huske længe. Vi husker jublen, dengang sejren kom i hus. Og de bedrifter gjorde alle folk så glade. Så der blev krammet, der blev kysset, kæmpe fest. Det er så klart, man har det rart, når man er dansker. Til fodboldspillet er vort landshold nemlig bedst. E con questo ritmo Dixieland ci immaginiamo Banzo, la città di Copenaghen in festa in quell'estate del 92. Non so se poi questa canzone abbia avuto un grosso successo in Danimarca, ma tant'è, Steven, comunque era un brano della Louisiana Jazz Band, che non proviene dalla Louisiana, ma si tratta di un gruppo Dixieland danese. Il titolo che sicuramente massacreremo è Ildest til det danske fodbold elte, cioè omaggio agli eroi del football danese, del calcio danese. E ovviamente hai già detto tutto tu, la Danimarca non doveva partecipare a quell'europeo, viene ripescata, i giocatori erano già in vacanza, la cosa arcinota, e arrivano addirittura alla vittoria contro la Germania, già riunificata ovviamente. E questa canzone ha di curioso che sono sempre, c'è sempre l'operetta in questa puntata, Steven, perché la musica è tratta da un brano dell'operetta tedesca nota in italiano come Al Cavallino Bianco, e soprattutto il brano nello specifico in italiano era noto come E Sigismondo, il più elegante e il più giocondo, che sembra un cartone animato di Anne Barbera, ma non lo è. Ebbene, invece questo testo parla appunto della vittoria clamorosa, fortuita, ma al tempo stesso meritatissima dei danesi. Eh sì, che tra l'altro convocati appena 10 giorni prima, perché l'esclusione della Jugoslavia è stata proprio 10 giorni prima, è incredibile quell'edizione. Andiamo avanti, anzi torniamo indietro e andiamo un pochino, ma proprio pochino più a sud. Against the world, but step by step I'm going under. I stand alone, no one to help me out, but I can't stand the pain any longer. Did you say free me? Daddy changed the way. Free me. Daddy walked down. Free me. Lui è Luciano Spalletti, campione di MotoGP, che ha fatto appassionare alle moto anche un insospettabile Pecco Bagnaia, così tanto che quasi si dimenticavano della fissione. Da sempre condividono lo stesso portafortuna. con Fabio Cannavaro, usato. E da oggi anche tu, Cannavaro Power Plus, gratis per la tua famiglia, da 24 euro al mese. Vabbè, avete sentito che sono tornate anche gli spot di Zibaldone, Fausto, però insomma oltre agli spot c'era anche una canzone molto particolare perché era cantata da poi un calciatore che ha vinto uno degli europei, quello del 1988. Sì, che è riuscito dove persino Cruyff negli anni 70 aveva fallito, l'arancia meccanica olandese che doveva dominare il mondo, poi è arrivata seconda due volte. Sono riusciti finalmente in quell'anno a vincere l'europeo, gol di Gullit e gol di Van Basten, bellissimo in finale contro l'Unione Sovietica, però non tutti sanno che Ruud Gullit era un personaggio pop nel senso più ampio, perché era anche una carriera da cantante. Tu mi dirai, ma anche tanti altri calciatori hanno cantato canzoni, però lui proprio ha avuto una mini carriera di artista pop, cominciata in Olanda appunto con questo brano Free Me nell'84. Ha pubblicato qualche singolo e poi ha fatto, tramite la sua amicizia con il gruppo reggae olandese Revelation Time, ha partecipato ad alcuni loro dischi e anche concerti, quindi è uno dei pochi calciatori che ha calcato veramente un palco, fra l'altro incidendo con i Revelation Time un brano South Africa, naturalmente dedicato alla lotta contro l'apartheid, in cui Ruud Gullit all'epoca era davvero impegnato in modo deciso. Noi andiamo avanti, però Fausto, prima grazie di essere stato con noi, un abbraccio e ci risentiamo presto. Certo Steven, ciao Steven, ciao Banzo e buon pomeriggio a tutti e ci risentiamo alla prossima speciale. Sì, a prestissimo, e noi andiamo ad ascoltarci la penultima canzone di questa puntata di Zibaldone per parlare di un'altra nazionale che ha vinto insieme alla Germania ben tre edizioni degli europei. Vediamo se capite di chi parliamo. Lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureña y Montpalet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñiz, nada Popo, Fipul. SSP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletita, Taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papen, Astrilla y Canilla. La Gaviota, Cataña y también Luis Milla. Y Guita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el loco Abreu, el mejón de la liguilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos jugadores también son modernos. De los se perdieron pelotero, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín. Carlos Sainz de candidato a presidente de Madrid. De Nilsson, Alfonso, Cuellar y Benjamín. Finidi con el gorro en el Villamarín. Bebeto, Aldana, Liagy, Manjarín. Cañizares en el Celta del Valencia, Bujidín. Donato descrito con fuerza para vivir. Los bigotes de Abadía, Carmelo, Galyamín. Vaya piso donde Simeone a Guerrero. Y la cara que tenía de mono Fernando Hierro. El Barça con oficio a con ella y Estebarán. Y ese copo con Fabiano Ojen y Tocornal. Todavía le queda algún partidito a Viola. Corriarán Bartual, Monchi, Monchu y Mora. Sevilla no es lo mismo sin Martagón y Moya. Y te ven en el filia, prometía ser una joya. La Cruz. No se habla con Ise Salgado. La entrada a su tobillo fue todo un regalo. Dos años y medio de baja en un sillón postrado. Con la Play y el YouTube tampoco es para tanto. Cumplido Goicochea, Salilla y Salenco. Otero, Giovanela, Paqui, Alessanco. Con Tetendillo, Morales y Rashenko. Si sabes estos nombres y está del coco enfermo. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. pelo. ¿Qué le diría a Zidane que Raúl López lo marcaría? Que a Kiko esa cara de cocoso se le pondría. La loncha que es Pasi, Derticia, Lucía. Y a González que el penalti a Yuki le pararía. Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía. La operación de Penelo que se come, se cría. Wifle habla que no se peribita importería. Duboski por las cataratas se mataría. Y esa promoción que se jugaba doble vuelta, ya no tiene emoción de quien suba o descienda. Pedazo de temporada hizo en primera Lleida. Y en el Salamanca de portero Estelea. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga, Estima y Milanco. Vino Addison y también Falimonte. El Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea. Robillón, Balboa, Macaraki, Saristea. Roger Milla, Senga, El Liberia, George Wea. Tazotti, Fusco, Dazoli, Enrique se mosquea. Cómprate un Etrusco, olvida el Jabulani. Queremos el Nifar como la nariz de Rami. Jugadores, esto supone jugadores como Haji. Somos enciclopedia, recordamos a Silvani. El fútbol desde entonces. Beh, questo pezzo Banzo è meraviglioso, ovviamente celebrava la Spagna in certo qual modo, almeno nelle nostre intenzioni, che vinse ben tre europei nel 64 e più recentemente nel 2008-2012. Insomma, il codazzo di Tassotti si nominava pure, insomma, la gomitata di Tassotti, ossia in Italia-Spagna negli Stati Uniti nel 94. Sì, ma se cominciamo con gli aneddoti non se ne esce vivi, perché questa canzone è un flusso di coscienza delirante, di nomi, di aneddoti tenuti insieme da logiche imperscrutabili, però funziona da Dio. Loro erano i FRAC, cioè Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, insomma l'accento andaluso è veramente spesso. Sono poi musicalmente, sono rapper, si rappano da Dio, però in questo brano si sente meno che in altri, di devozione musicale strettamente giamaicana, mi piacciono questi ritmi in levare un po' giamaicani. E sì, effettivamente questo non è un brano che celebra direttamente la Spagna quanto il calcio di una volta, che poi non è così remoto e si inserisce in quella tradizione di geremiade del fatto che il calcio di non faccia schifo. E beh, io un po' sono d'accordo, però bisogna, ecco, sapere che insomma è anche una deformazione indotta dalla nostalgia, ecco. Beh, sicuramente, però insomma andatevelo a risentire questo brano e ascoltatevi bene tutto quello che dicono, perché veramente ci sono tanti di quei nomi che abbiamo perso di vista. Comunque insomma siamo alla fine di questa puntata, Banzo, però prima di salutarci annunciamo la canzone con cui ci salutiamo. Parlavamo prima del Portogallo che perse con la Grecia nel 2004, insomma Portogallo ha dovuto aspettare 12 anni per vincere quell'europeo nel 2016. Sì, oltretutto ho perso in casa, non l'avevamo ricordato. E quindi, però, in quello stesso anno, nel 2004, andò a vivere in Portogallo, andò a Benjamin Lennox, che nome non dirà nulla, un americano che era noto come Panda Bear, membro degli Animal Collective. E questo suo brano con cui chiudiamo è del 2011, dal suo album Tomboy, e si intitola Benfica. E non è un lode ovviamente al grande club lusitano, ma una riflessione sul vincere e perdere nel calcio, che in realtà è difficile da cogliere perché il testo è molto alto, molto sommerso dalla musica, la voce alta, sommersa dalla musica, quindi un po' si perde, però è una chiusura molto evocativa. Eh sì, insomma, dai, per il Portogallo di quel 2016, Banzo, grazie di essere stato con noi. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17:56, diceva tutti i venerdì. Dai, recuperiamo un riferimento dei FRAC. Ecco, dicono che Roberto Baggio ha una coletita taleghera, cioè un codino carcerario. Attenzione. Grazie Baggio, buon venerdì sera a tutti. Godetevi questa canzone dei Panda Bear, Benfica. Bye bye.